America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Scandalo è il termine più ricorrente fra televisioni, radio, media americani per definire la condanna di Amanda Knox a 28 anni e 6 mesi di carcere per l'uccisione di Meredith Kercher. Gli americani non hanno dubbi, Amanda è innocente, e per noi, devo dire, c'è un danno indiretto: l'incertezza della giustizia italiana che prende anni, prima condanna, poi assolve, poi condanna nuovamente. Altra notizia: il PIL americano nel quarto trimestre è cresciuto del 3,2%, crescita invidiabile, almeno per noi. Bernanke può congedarsi oggi, dopo 8 anni alla guida della Federal Reserve, a testa alta. Beh, devo dire, c'è chi non la pensa così. Anche ieri abbiamo dibattuto con chi afferma che Bernanke abbia fatto male, a cui rispondo di nuovo: i numeri contano, magari, come ho detto prima, li avessimo noi. Ma oggi niente economia, parliamo invece di uno scandalo vero di cui siamo oggetto, uno scandalo, questo sì, gravissimo, almeno secondo me, causato stranamente dal New York Times e che ha radici lontane. Sentiamo. A study done at the University of California, Davis, where they bought off the shelf a whole bunch of different variety of olive oil. Ecco, avete sentito questo newscast che riferisce di uno studio dell'Università della California secondo cui il 69% dell'olio d'oliva che si compra nei supermercati americani, beh, non è quello che le etichette dicono di essere. Questo studio risale a qualche tempo fa. Ecco, dopodiché è uscito qualche tempo dopo un libro di un tale Tom Mueller sull'olio d'oliva italiano, il cui titolo Extravirginità, il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva, ha naturalmente destato scandalo. E anche nel suo blog Mueller dà notizia, diciamo, di modalità produttive non esattamente cristalline. Basandosi su questo libro, il New York Times ha lanciato un vero e proprio attacco all'olio italiano, ha fatto una serie di vignette distruttive del nostro prodotto, il cui titolo è Suicidio extravergine. Ecco, questo non aiuta l'esportazione italiana. Queste vignette sono strutturate, devo dire, in modo davvero provocatorio e sicuramente in malafede. Intanto si dice che gran parte dell'olio italiano in realtà viene dalla Spagna, dal Marocco, dalla Tunisia, eccetera, eccetera. Come si struttura questo traffico? E ci sono 4 fasi, una fase in cui le olive vengono trattate e pressate nel paese d'origine, quindi non da noi, e quest'olio viene spedito poi in Italia. Poi nel porto di Napoli ci sono dei traffici, per cui oli diversi vengono miscelati e vengono spediti a delle raffinerie. Alcune di queste raffinerie, e siamo alla terza fase, tagliano gli oli di bassa lega, di bassa qualità, con l'olio d'oliva originale. In più ci aggiungono il beta-carotene per mascherare il sapore e la clorofilla per mascherare il colore. E l'impressione che si ha è che tutto l'olio extravergine italiano sia, come dire, tarroccato. Quarta fase: l'olio imbottigliato, etichettato come extravergine, è distribuito nel mondo come se fosse made in Italy, quando in realtà non lo è. E l'illustratore, che poi è Nicholas Blackman, che è l'art director della New York Times Review of Book, aggiunge: beh, è stranamente una cosa legale anche se l'olio non viene dall'Italia. Ecco, devo dire, queste sono affermazioni molto gravi. Mueller ha preso le distanze, ha detto che assolutamente le sue cose sono state travisate, il suo nome è scomparso dall'articolo, ma il New York Times ha lasciato le vignette facendo soltanto alcune piccole modifiche, dicendo non tutto l'olio italiano ma solo una parte, dicendo che alcune delle raffinerie, non tutte le raffinerie, insomma ha cercato di mettere una pezza, ma non abbastanza. Ne parliamo con Pierpaolo Celeste, capo dell'ICE Nord America. Buongiorno Celeste. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Ecco, dunque, beh, immagino lei sia rimasto sorpreso da questo articolo così fulmine a ciel sereno del New York Times. Che danno può portarci un articolo così? Beh, innanzitutto un danno psicologico, perché conoscendo i consumatori americani, se vedono proprio, come lei ha detto, un fumetto in cui 7 bottiglie su 10 sono adulterate, la prima cosa che fanno, non conoscendo bene il problema nella sua interezza, è comunque di non comprare olio. Noi lavoriamo molto come Agenzia Italia nel far capire ai consumatori come debbano leggere le etichette dell'olio. Noi abbiamo dell'olio fantastico, e la maggior parte dell'olio che entra in questo paese Voglio ricordare che più del 50% dell'olio d'oliva che entra in questo paese proviene dal nostro paese. Ecco, di che valori stiamo parlando? Stiamo parlando di oltre 500 milioni di dollari su un totale di 1 miliardo di importazioni del food e del wine dall'Italia. Ecco, l'Italia mi sembra al primo posto, no, nella classifica dei paesi da cui l'America importa l'olio. Siamo assolutamente al primo posto con oltre il 50,8 per l'esattezza della quota. Ecco, ma se lei deve fare una stima di quello di quant'è la percentuale di questo olio adulterato che viene contrabbandato, che viene, qual è la sua stima in America, diciamo? Io non credo che superi il 5%. Noi abbiamo dell'olio che è certificato. Ci sono costanti certificazioni e questo lo raccontiamo ai consumatori americani. E una delle primissime difese dell'olio d'oliva è venuto proprio dalla North American Olive Oil Association, che ha parlato di un'inaccuratezza e un alto tasso di diffamazione di quest'articolo. L'executive vice president, infatti, si dice scioccato del contenuto dell'articolo e tra l'altro dice che quella cifra del 69% di olio che sarebbe giunto adulterato è una cifra falsa presa da un rapporto vecchio di cui fu dimostrata un'evidenza zero dall'International Olive Council, quindi già giudicata decisamente fuori da un contesto serio. È una crisi di immagine, nel momento in cui succede una cosa di questo genere, crisis. Ecco, come reagisce l'ICE a nome di tutti i produttori di olio italiani per bene a questo grave danno di immagine? Scriverete al New York Times? Gli farete causa? Racconteremo le cose come stanno, per cui che indubbiamente qualcuno ha raccontato qualcosa che esiste, ma non come fenomeno, ma come frangia di una vera e propria frode. Però continueremo a insistere con le iniziative sane per i produttori sani che offrono un prodotto di eccellenza che è indiscusso su questo mercato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di questo colpo basso del New York Times, credo un'analisi davvero non necessariamente approfondita. Mi dispiace che poi alcuni in Italia abbiano dato fiato a questa polemica. Voglio dirvi però che il rapporto d'amore con la cucina italiana, con la nostra gastronomia, è radicato in America e dunque come buon auspicio voglio lasciarvi con una canzone di Dean Marty, That's Amore, Pizza Pie, storia d'amore con l'Italia e la pizza. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.